13-1 I gonfiatori di eliche. Con l'introduzione dell'elica a passo variabile, i meccanici trovarono un sistema ingegnoso per variare il passo dell'elica. Inventarono un sistema pneumatico a due passi, un passo corto per il decollo e un passo lungo per il volo di crociera. Questo sistema consisteva nel collocare una vescica all'interno del cono dell'elica e gonfiarla a una pressione di 2 kg/cm al quadrato, sufficiente per mantenere l'elica al passo corto. Dopo il decollo, una volta raggiunta l'altitudine di crociera, il pilota svuotava la vescica dall'aria e l'elica passava al passo lungo. Al rientro dalla missione, era necessario ristabilire la pressione nella vescica a terra. Questo veniva fatto manualmente con una grande pompa da bicicletta. Da qui il termine utilizzato per i meccanici dell'aeronautica militare francese, gonfiatori di eliche.